Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mi sta accadendo qualcosa che normalmente non mi accade quando viaggio in treno. Normalmente sono io a osservare gli altri, sono io che mi faccio i fatti altrui, sono io che scruto con attenzione per cercare di capire qual è l'ospite possibile per la mia prossima chiacchierata. Invece questa volta è la donna che mi guarda. Mi guarda con insistenza, mi guarda quasi ammiccando, mi fa capire che forse gradirebbe che io mi sedessi accanto a lei. Non posso pensare che sia un tentativo di seduzione, ma ritengo lontano da ogni tentazione seduttiva. Eppure quella donna mi invita accanto a lei e non posso fare a meno di alzarmi e di sedermi. Forse avrà voglia di chiacchierare, o forse altro. Non per farmi i fatti tuoi, ma ho sentito dire che hai un impegno stasera. Sì. Quindi sei occupata fino a domani? In teoria devi dormire qui. Chi deve dormire lì? Un mio amico. E quindi devi lasciargli casa? Non gli devo lasciare casa, ma devo stare con lui dentro la casa. Quindi lo ospiti? Sì, perché ti sembra strano? No, domanda così. Per farmi i fatti degli altri, siccome devo passare il tempo, mi faccio i fatti degli altri. Oh, un uomo curioso abbiamo. Sai, io sono una signora molto classica. Sei all'antica? Abbastanza. Faccio comunque, diciamo, un'attività basata su una storia molto antica. Cioè, comincia a raccontarmela dall'inizio, visto che me... Diciamo che io faccio la mansione più antica del mondo. Sono una geisha. Ah, una geisha? Vabbè. Ah, meno male. A lei sembra normale. C'è tanta gente che ha tutti questi pregiudizi. Ma tutti gli uomini vogliono una donna geisha. Le donne hanno capito, facendo le geisha, tengono gli uomini legati a sé. Ma infatti io me le sono studiate ben bene. Solo con la differenza che io non li voglio tenere legati a me. Quindi... Piace con piacerli così, un vabbè. Paio di ore, tre ore. Però poi, insomma, ognuno a casa propria. È una benefattrice dell'umanità, quindi. Bah, a dire il vero... Può sembrare un po', come si può dire, azzardato, ma direi proprio di sì. Ma ha un giusto compenso per questo o soltanto per beneficenza lo fa? Qualche volta è capitato che l'ho fatto per beneficenza, però nella vita di tutti i giorni ho un buon compenso. Sì. Giustamente, vabbè, lo fa per mestiere. Era nata così per gioco, era uno scherzo, un progettino, chiamiamolo così, artistico, contro il femminismo. Mi sono messa a studiare e poi invece un giorno un signore mi disse bruscamente: molto interessante, ma quanto costa? E allora ho pensato di provare e poi gli ho dato effettivamente un costo. Quindi sei studiata un tariffario? No, una cifra tonda, uguale per tutti. Ma qualunque sia il tipo di trattamento? Sì, certo, perché... Beh, uno va in un salone, che ne so, tanto costa farsi i piedi, tanto costa farsi le mani, tanto il massaggio... No, qui tutto è uguale. Proprio... Diciamo, è come una performance, compri un biglietto e poi quel che accade, accade. Ah, quindi lo sceglie lei comunque il programma? Ma non lo sceglie nessuno, nel senso parto da una piccola base... Vabbè, si è inventata uno... Un incontro non potrà mai essere uguale ad un altro. Sì, vabbè, adesso chiacchiera, fa uno spettacolino... Che ha messo su standard dove vanno le persone, lei offre lo spettacolino, questo. Beh, a volte vado anch'io da loro, eh. Ah, sì, però se le porta dietro la valigetta con gli attrezzi. Ma sa, me la tengo anche parecchio indosso. Ah, beh, quindi è tutta nuova, ho capito, ma si tratta di cose, comunque rientriamo sempre nel classico, nell'equipaggiamento di una donna per essere affascinante. Diciamo che io uso le armi classiche della femminilità. si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Non è che è nata con questa vocazione, con queste idee in testa, immagino. No, aveva fatto una vita diversa, a un certo punto ha cambiato punto di vista. Sì, certo, ho fatto anche la moglie. Quindi nasceva come moglie. Diversa la vita. Nasce come moglie lei, dal punto di vista femminile. Eh sì. Beh, oddio, no, anche un pochino prima, ovviamente. E beh, uno diventa moglie. Negli anni 90, comunque sia. Poi sì, mi sono innamorata, ho sposato questo bellissimo uomo, ma poi gli anni passano, la passione così si affievolisce e ho giurato a me stessa che non avrei mai sposato o comunque portato un uomo fisso in un rapporto fisso proprio per non stressarlo. Beh, ma non c'è una... ci sono varie gradualità, diciamo, nell'impugnare la propria libertà sentimentale emotiva. Lei mi sembra che abbia scelto quella. Beh, io sono molto che meno la coinvolge alla fine. Sinceramente no, ad oggi no. Ah, perché la coinvolge? Vengo coinvolta da altre attività mie personali. Non è certo un uomo, non è certo il far l'amore. Vabbè, questa sua attività, diciamo, di intrattenitrice raffinata di maschi è il suo lavoro, non è più la sua passione. Può mettere passione nel lavoro, anche io sono appassionato al mio lavoro, ma dovresti dire. Io sono sincera. Se dovessi pensare al giorno in cui finisco di fare la geisha, mi vedo un po' spaesata, nel senso che l'ho fatto veramente con il cuore, con la passione. Però certo, sono anche cosciente che comunque nel cambiamento, il cambiamento ci sarà, non sappiamo quale è, e che comunque la geisha può mutare e cambiare, anche quando non potrà dare il corpo potrà dare qualche altra cosa. Sì, vabbè, quando uno ha 70 anni può fare altre cose, ma a meno che non si rientri in una sfera un po' grottesca. Non potrei insegnare a farlo. Ah beh, certo, vabbè, cioè, potrebbe fare la maestressa. È carino, no? Ah, aprire una scuola, questa è una bella idea, vero? È una diversificazione, l'avevo pensato. No, ho già pensato, già so come organizzarmi, insomma. Quindi vuol fare dei corsi di formazione? Sì, ma non per le donne che scelgono di venire. Mi piacerebbe che gli uomini portassero, accompagnassero qui le loro compagne. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Lo sa quanti uomini a volte si innamorano veramente di donne che però, per quanto è forte l'amore, a volte potrebbero non trovare adattissime alle loro scene di lavoro? O comunque gli servirebbero vestite bene, fossero più divertenti di sera. No, forse c'è stato un fraintendimento di base, ho capito un'altra cosa. Lei confeziona delle perfette donne immagini da potersi portare per fare una buona figura, o perlomeno per non far figure barbine, che porti la moglie che sbadiglia o che alla fine si rompe le palle, non sa che dire o tiene il muso alle persone. Delle persone che uno fa bella figura, ecco, questo. Esattamente, che appoggino il proprio compagno. Avevo capito un'altra cosa, giochino di squadra con lui e che comunque sia, ovviamente, nella vita di tutti i giorni, quando lui torna a casa stanco, un po' arrabbiato, un po' stizzito, loro devono rimettergli la pace e l'amore nel cuore. Beh, ho capito, è una scuola di tenuta del matrimonio, essere sempre all'altezza della situazione, sia nelle situazioni pubbliche che in quelle private. Qualcosa che forse manca. Certo, io la vedo così. Beh, se è vista come un medicamento di patologie, va bene. Se la coppia ha dei problemi e questo può guarirla, va bene. Non ci trovo niente. Guarite anche tante di coppie. Sì, la guarite lei, come ha fatto a guarirla? Beh, quando sono venuti qui un po' a sfogarsi. Quindi fa anche terapia di coppia. Se ci stavano dei figli in mezzo e la compagna comunque era una signora abbastanza in gamba, ho cercato di ributtare l'acqua dalla loro parte del mulino. Quindi fa terapia di coppia a tutti gli effetti. Solo però parlando con una parte della coppia, perché giustamente l'uomo non porterebbe mai la sua compagna qui a casa di una geisha. perché l'uomo ha comunque a volte una mentalità un po' chiusa, pensa che la sua donna non possa accettare una cosa del genere. Oddio, o pensa che poi ci piglia gusto e dopo si perde la donna, se questo è il problema forse. No. Io non mi prenderei mai nessun uomo di quelli che io frequento in maniera fissa, per cui non porto via l'uomo a nessuno, anzi, proprio perché non mi possono avere, ritornano a casa. Vabbè, ho capito, comunque rientra nell'ambito della terapia, diciamolo così, generalmente. Ecco, ma com'è stato il passaggio, diciamo, fra ruolo di moglie, seppur innamorata? Qual è stato il motivo della delusione e del riposizionamento della sua azienda individuale? Ma guardi, io ho sposato un uomo molto interessante, ma era un artista, col passare degli anni si era trasformato e aveva anche un po' trascurato il suo lato veramente igienico, insomma, era diventato un punk. Cioè puzzava, faceva schifo. Tutto iniziò buttando il mio carissimo marito ogni sera in una bellissima vasca di acqua calda con bollicine e un prosecco, pur di riportarlo ad una vita igienica regolare. Ma giustamente non puoi curare veramente un punk, ma poi, diciamo, ho applicato questo concetto in modo invece molto più largo e più generale. Beh, il punk se l'è levato dalle scatole, mi sembra di aver sì, capito. Sì, viva Città del Messico. Beh, lì almeno fortemente aveva meno problemi. Si è levato parecchio dalle palle. Vabbè, era faticoso comunque, un uomo che non si lava e faticoso. Ah, bene. Detto quello, faticoso. Si sarà accorto che non tutti gli uomini sono così, sono anche uomini insopportabili ma che sono pulitissimi, forse non era soltanto quello il problema. Per carità, ma ci mancherebbe, c'è anche chi lo è troppo, ma rimane pur sempre il fatto che sa, se non hai un lato pendente ne hai un altro, ma questo tutti quanti, compresa io ovviamente, insomma. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Secondo me chi crede in un rapporto esclusivo è esattamente uguale ad una persona che è nata in un piccolo paese e non viaggia. E quando una persona non viaggia ha sempre un punto di vista limitato, perché noi possiamo viaggiare anche attraverso le persone e da ognuna di loro possiamo prendere anche del buono e del bello. Beh, quindi lei ha viaggiato molto, immagino, per dire questo. Tanto. Quindi si considera privilegiata ad aver fatto questa scelta, ma questo mi fa piacere, perché molte volte la gente si lamenta, spiaggia addosso, dice che è vittima della società. Ha fatto una scelta consapevole alla fine, sì, volontaria, sì, non era obbligata. La rifarei, anzi io a volte lo dico, dovrebbe essere quasi per ridere, ci mancherebbe. Come era una volta il militare per l'uomo, un anno, diciamo, da geisha alla donna gli servirebbe parecchio. Un anno di disinibizione, sì, e uscita, sì, dall'esclusività. Conoscere, sì, tanti uomini, poi sì. Beh, sai, la funzione dei college. Se lei conosce tante donne, in mezzo a tante, se veramente ne colpisce una, vuol dire che probabilmente potrebbe essere questo famoso, chiamiamolo, amore. Ma se uno ne conosce soltanto una, per forza non è amore, perché beh, come l'hai scelta? Non l'hai scelta. Ci sono quelli che si sposano col compagno di banco e pensano che poi possa durare tutta la vita, pensi un po'. Sì, sì, no, immagino, per carità, cioè immagino, mi auguro che non succeda più, insomma. Ma diciamo che se uno parte dall'idea che il mondo è vario e il mondo può prestare sempre sorprese e sempre qualcosa di diverso, se si pone questa premessa è chiaro che non ti accontenti mai. Qualunque cosa può essere messa in discussione da una successiva. Se questa è la chiave del suo insegnamento, devo dire che è molto moderna, è molto all'avanguardia. Insegna che ormai la mobilità sentimentale e emotiva fa parte della proiezione nel mondo concreto di quello che già facciamo con i nostri smartphone. Abbiamo centinaia di migliaia di amici. Il mondo sta andando sempre più veloce e si trasforma in continuazione. Io penso che anche l'essere umano si deve proprio adeguare a questo ciclo, perché se no soffre, se non si adegua soffre. Quindi lei, diciamo, è una sorta di profeta del mondo futuro che già stiamo vivendo. No, non sono un profeta, potrei dire una fan del mondo futuro, mi piacerebbe davvero vederlo a lungo, ce l'auguriamo fino a che possiamo, perché Nonostante dicono che questi sono tempi brutti, si stanno facendo delle cose bellissime. Ma non potevo pensare di vivere in tempi migliori, mi trovo d'accordo in questo. Perfetto. Io sono felice di vivere questo. Però siamo molto, molto in pochi a non lamentarsi, eh? Ma lo sa perché è bella? Perché è un'epoca in cui non esiste nulla di definito, tutto può essere risovrapposto e riscritto dopo un secondo. E trovo fantastico, che è un'epoca senza dogmi. Ma guarda, se io dovevo quasi quasi incontrare un uomo così in treno, cosa sarebbe successo se lei mi fosse venuto a trovare a casa? Mi chiedo a questo punto. Ma poche niente, glielo dico già prima, così poche niente. Perché? Ma perché non ho passione io assolutamente per rapporti umani. Giù così. Sì, purtroppo così, sa, ormai l'età, il tempo e le esperienze negative mi hanno così fortemente segnato. Ah, ci fosse una persona che potesse compiere il miracolo. No, non posso pensarlo. Questo miracolo è incompibile. È una strategia paracula per rendersi interessanti. Questo dovrebbe capire. Ma come si chiama? No, non ho nome, sono viaggiatore nel treno. Oh, peccato. È così, è fatto così. Ognuno fa il suo mestiere, ognuno racconta le sue cazzate, io racconto le mie. Molto facile. Vabbè, comunque, guardi, mi spiega solo una cosa. Voglio sapere il suo marketing, su che piani si svolge. Quali sono, diciamo, i suoi punti di riferimento, i suoi punti di forza. Questo mi interessa. Perché lei si propone. Una domanda. Vuole sapere quali metodi uso? Sì, diciamo, il mercato è quasi saturo. Perché debba scegliere lei piuttosto che un'altra, le tante geishe che uno da cui si vede circondato a ogni piede spinto, deve darmi un punto di eccellenza, qual è? Se io dovessi scegliermi, mettiamola così, mi sceglierei perché il mio appuntamento è molto dilatato, per cui ti do la possibilità di esprimerti veramente a 360 gradi. Insomma, cioè tutto il tempo che vuoi. Che non c'è un limite di tempo. Senza io fretta. Consiglio sempre un due ore e mezzo, a volte succede che sono tre, perché poi dipende dalla persona, insomma, che uno ha avanti, ma ognuno ha la propria, come si può dire, esclusiva ed importante. Cioè lei non mette fretta, no, questo è un punto a favore, non c'è una scadenza, uno potrebbe pensare che se vuole, come la telefonata che ho intercettato prima, se vuole uno si ferma la notte tranquillo, non è che dice vai che ce n'è un altro, ecco, questo non è così. Assolutamente mai, almeno questo briciolo di buon gusto, insomma, no, è un perfetto. Giorno che un uomo si senta l'unico, almeno per una giornata. Beh, questo mi sembra un buon marchio, è un brand che secondo me ha successo, perché uno grazie, non si sente sì, grazie sì. Mille, no, sono contenta che lei l'approvi. No, l'approvo, mi sembra giusto, l'uomo vuole essere rassicurato e nulla rassicura più il fatto che davanti a sé il tempo è illimitato, ha tutto il tempo che vuole, quindi nessuno gli mette fretta, nessuno lo sta a osservare, ha i suoi tempi, magari non è così, però dai suoi tempi, questo mi sembra un ottimo marchio. Perfetto, benissimo, i miei tempi sono finiti perché la mia stazione è arrivata. Buon viaggio, in bocca al lupo. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Eccolo, lo vedo a distanza. Lui finge di non vedermi, forse imbarazzato, forse non gli va di parlare. È lui, è l'ex legionario che oggi fa la guardia giurata e con il suo vestito professionale. E con la divisa blu, e con il pistolone, e con il cappello appoggiato sulle ginocchia, e con l'inutile pacco di manette, di ferraglia che porta alla cintura, perché una guardia giurata deve solo far paura, non può usare quegli strumenti che lui probabilmente ha usato ampiamente nella sua precedente vita di guerriero. Beh, è un po' che non ci vediamo. Sì, è un po' che non ci vediamo, in effetti. Hai fatto riflessioni nel frattempo su quella che è stata la vita passata, la vita attuale? Mi capita spesso di riflettere su quello che faccio ora e quello che faccio in passato. Ho dei rimpianti per le donne, perché le donne sono sempre state la mia rovina. Purtroppo sono sempre piaciute per colpa di una, si chiama Gabriella, e sono voluto scappare dall'Italia. Perché avevo avuto una discussione con il suo ex fidanzato. Cioè, una discussione che ti ha fatta coltellate per scappare dall'Italia È pesante, no? Sì. Ah, proprio così, sì. Ci ho preso? Sì. Ma guarda, se tu vuoi te la racconto. No, è figurati, interessantissimo. Perché, no, praticamente io la sera uscivo dopo il lavoro, perché io lavoravo a una ditta di import-export di materiali e mi occupavo di facchinaggio. E una sera praticamente andai a un pub che frequentavo tutte le sere. Nel senso che tu trasportavi la merce sulle spalle, in questo senso? No, nel senso che scaricavo dai camion e ricaricavo sui camion. Ma con le muletto. Cioè, ah no, con, beh, cioè, non è che facevi l'uomo di fatica, ecco. No, ero una specie di magazziniere. No, questo per capire in questa disputa chi poteva vincere. Sarei uno abituato a portarti scatoloni sulle spalle, quindi. Loro erano un quattro, eh. Ah, in quattro. Loro erano quattro perché lui era un codardo. Quindi, no. Allora ritorniamo al punto. Tu, magazziniere, eri innamorato di una donna. Sì, sì, questa era stata fidanzata diversi anni con questo tizio e una sera questo soggetto mi aspettò fuori di questo pub. Ma lui sua, saranno lasciati, non ci stava più assieme? No, siamo lasciati già da qualche mese, però lui era convinto che fosse colpa tua, che fosse sì, no, vabbè, ma in realtà questa ragazza usciva con me perché voleva un po' divertirsi, svagarsi. Ah, quindi stavano ancora assieme e la dava anche a te, in sintesi? No. Credo che, almeno io spero di no. Spero di essere. Se no, perché lui doveva venirti a aspettare? Se saranno lasciati, ormai finita, no? Ma insomma, perché te lo spiego io perché Gianluca? Perché lui era un comunista e i suoi amici erano comunisti. E perché c'entra questo? Fascista. Una scusa era. Ah, ha preso il pretesto poi della donna per picchiarti perché era un nemico politico. Mi aspettavano poi del pub, io non feci in tempo a sentire altro che dire dagli al nero, e mi vidi questo con un tubo. E io c'avevo un trincetto, un temperino, non è un trincetto, un temperino che si usa per sfaccettare i pancali di pellame. Sono dei lame di 3 centimetri con una protezione per la mano. E io quando mi sentii dire così, l'avevo in tasca, non feci discorsi, tirai fuori di tasca e glielo piantai nello sterno. A me gli hai dato una coltellata praticamente. Sì, che devo fare? Quello, se no mi spaccava la testa. E lui che è successo? E però niente, subito via, scappare. E gli altri tre, scusa, gli altri tre che facevano? No, quando videro quello che era successo, gli altri scapparono. Cioè, rimasero, non si aspettavano una relazione del genere, pensavano magari a una cosa che ne toccavo, oppure mi sarei messo, che ne so, a chiedere perdono. In ginocchio a chiedere pietà. Sì, un accidente. Invece tu gli hai dato una trincettata, ma che è successo poi a lui? Gli ha fatto lesioni gravi, l'ha ammazzato, che gli è successo? No, io lo lasciai lì a terra che rantolava. Sì, rantolava, no. Ma lui che poi che conseguenze ha avuto da questa tua coltellata? Ah no, lui è ancora vivo. Io poi dopo l'ho saputo quando sono tornato in Italia che non l'avevo ammazzato. Beh, tu comunque gli hai dato una coltellata per ammazzarlo. Che dovevo fare? Te che avresti fatto? Boh, non lo so, io di solito il trincetto lo lascio a casa per non aver paura di far male a qualcuno, dico sincera verità, però sai, ognuno c'ha. No, ma guarda che non è che l'avevo in tasca per qualche ragione, ma era rimasto in tasca per l'uscita del lavoro. Non è che avevo intenzione di far del male a qualcuno. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Salvato la vita in quel momento, nella tua intenzione? In quel momento, perché sennò quelli mi davano fine, quelli randellate e mi lasciavano a terra. Poi dopo, quando tornai nel 96. E quindi tu dopo questo atto qua cos'eri? Ricercato, eri latitante? No, questo non andò neanche al pronto soccorso, perché poi dopo seppi che praticamente non gli avevo fatto molto male, perché poi dopo quando tornai, insomma, mi informai, chiesi un attimino. Quindi sei scappato per paura delle conseguenze, non perché ce ne fosse? Io scappai per quello. Non ti hanno nemmeno denunciato praticamente? No, questo no, non ebbero neanche il coraggio di andare al pronto soccorso, perché cosa gli dicevano? Che aspettavano fuori uno del pub per picchiarlo. Io comunque poi c'erano testimoni. Ma allora perché sei scappato? Scusa, se non perché c'era. Io avevo paura che. Della vendetta. Per denunciarmi. No, io lì per lì pensavo proprio di averlo ammazzato, ridotto male, perché glielo piantai nello sterno all'altezza di un polmone. Rimase attaccato proprio il trincetto? Sì, no, glielo piantai lì dentro e lo lasciai lì. quando vidi la cosa, lui andò a terra, probabilmente per il dolore, non so. E lo vidi lì a terra che rantolava e dissi tra me: oddio, l'ho ammazzato. E sei scappato via. E cosa hai fatto? Dove sei fuggito? No, io avevo già parlato tempo fa. Tempo prima? Prima con una persona che diceva, raccontava della legione straniera. Ero già rimasto un po' affascinato perché comunque il mondo è quello lì, un po' mi piaceva. E dissi: boh, sai che c'è, proviamo, cioè, tanto comunque bisogna che mi levo di torno per qualche tempo. E montai sul treno del paesello fino a arrivare al confine con la Francia, poi lì mi presentai a un distretto di gendarmeria, di polizia, perché lì ti puoi presentare tranquillamente a un ufficio di polizia e dici: guarda, io mi voglio arruolare nella legione straniera. Poi loro ci pensano loro a chiamare una tradotta, una camionetta, qualche cosa, e ti mandano lì a Ubagna, a Marsiglia. È cominciata così questa storia. E quindi niente, tu per quanto tempo hai pensato di essere un assassino? Quindi, prima che ti dicesse qualcuno che non avevi fatto nulla. Ma io francamente l'ho ritenuto finché... No, ma non è che avevo dei rimorsi, francamente, però avevo paura del gabbio, quello sì. No, io finché non rientrai in Italia... che non rientrai in Italia nel 96, che mi informai un attimino prima, dissi poi lì venni a sapere tramite amici con cui avevo ancora dei contatti, dice: no, guarda, quello lì non si è neanche mai presentato al pronto soccorso perché aveva paura, cioè avevano paura. Poi devo dire una cosa: in tutto quel tempo che sono stato lì mi sono innamorato, disinnamorato un sacco di volte. Perché come legionario, diciamo, avevi un motivo di fascino in più, no? Ora magari se la vedo ora mi crolla il mito, perché magari adesso lo idealizzo. E dove l'hai conosciuta lei? Lì, a Coruru. Ah. Quando uscivo libero uscita c'era una specie di bettola, una specie di locale. Cioè un casino praticamente. Sì. Ogni cosa ha il suo nome. No, andavi al casino, eh. No, però non era come sono quell'idea che c'è in Italia del casino. Uno va lì, paga, si fa la invece? L'uscita. No, sono ragazze che diciamo si prestano un po' un gioco di finzione. Non tutte, alcune. Cioè ti illudono che sono innamorate, comunque le paghi, va bene. Ti illudono di farti, certo, tu gli lasci un regalino uscita dalla stanza. Chi lo chiama marchetta, chi lo chiama regalino, ma non cambia molto la sostanza. Sì, però si prestano alla finzione a 360 gradi. Ah, beh, esatto. Ti portano, magari quando sei in franchigia per più di 20 ore, tu la porti a giro, tu vai a... Ci sono amori ventennali basati sulla finzione, figurati. Almeno è chiaro. Uscire con una cosa, con come chiamano in Italia le escort, un po' come uscire con una escort, la stessa cosa. Però loro ti danno di più, ti danno. Non so se sei mai stata a Cuba, se hai mai sentito parlare no, di fidanzate cubane. Nemmeno a puttane, hai capito? Quindi non sono molto esperto in questa cosa. No, lo dico con candore. No. Quindi non so dirti, sì, immagino che sia una cosa che in fondo è un'idea che gli uomini hanno, non lo so, sto ad ascoltare rapito e interessato. Il treno va. Ancora una volta mi prenderò la somma quanto immeritata responsabilità di dare il responso a una donna che mi chiede il punto di vista maschile. Beh, questo mi riempie d'orgoglio. Che sia diventato l'espressione globale e riassuntiva di un punto di vista maschile, beh, diciamo, nella mia veneranda età mi dà un grande conforto. È una sorta di viagra dell'autostima sapere che tante donne mi chiedono: mi dici tu qual è il punto di vista maschile? Caro Gianluca, oggi ho bisogno delle più classiche delle consulenze sentimentali e ho bisogno proprio di un punto di vista maschile prima che io diventi definitivamente matta o esaurita. Ho 30 anni, sono fidanzata con un mio coetaneo da 2 anni. Per vari motivi non viviamo insieme formalmente, ma di fatto sì. Io ho sempre pensato di lui che fosse l'uomo giusto con cui avere una storia di lunga durata, non dico vita natural durante, ma almeno per un po' di anni sì. E l'ho sempre pensato non per chissà quali congetture, ma semplicemente perché lo amo da quando l'ho conosciuto e fino a qualche mese fa siamo sempre stati benissimo, affiatati, anche nel quotidiano. Poi 3 mesi fa comincio a sentire che in lui qualcosa non va. Percepisco in lui un po' di stanchezza. Ok, capita, sono periodi, dice lui. Però noto che le sue disattenzioni sono rivolte a me. Gesti spontanei di una volta spariscono. Che so, ad esempio la domanda: senti, ti vengo a prendere, se esci tardi al lavoro e sei stanca, ci andiamo a mangiare una pizza? Sparisce. Come sparisce anche la voglia sua di fare sesso. Gli chiedo se il problema sono io e lui dice di no. Ma dopo 2 mesi vedo che non cambia nulla, anzi mi convinco che il problema sono proprio io e glielo dico chiaramente. Lui comincia con quella tiritera del sono solo stanco e un po' confuso, dopo un tentativo di chiarimento di ore che mi sfinisce perché non sopporto estorcere confessioni. Lui ammette che deve capire, che lui sente di amarmi, ma che se io noto un suo cambiamento nei miei confronti deve essere vero e che ci deve pensare, che forse ho ragione. Niente di conclusivo, va avanti un tira e molla continuo, alla fine del quale io mi aspetto di sentirmi dire, ahimè, una frase definitiva, banale, quanto essenziale. Non ti amo più. Che mi farebbe male, ovvio, ma almeno non sarebbe questo continuo stillicidio di mezze ammissioni strappate da me, dopo analisi inutili, vani tentativi di pseudo-introspezioni psicologiche. Ahimè, cara ragazza, è impossibile avere il controllo totale dell'espressione emotiva di un altro essere umano. In questo devo dire che noi uomini siamo più sprovveduti, non sappiamo fingere, o fingiamo male, o fingiamo soltanto quando abbiamo storie clandestine a tenere nascoste. In quello siamo bravissimi, siamo degli amatori multipli o molteplici, ma quando c'è una persona che ci osserva, una persona che vede il decadimento della nostra affezione, il decadimento della nostra dedizione, il decadimento della nostra furia selvaggia nell'accostarci a una persona, non sappiamo fingere. E tu ti domanderai perché non sappiamo fingere, perché non vogliamo fingere. O forse sono io a non capire niente. Allora mi rivolgo alla mia migliore amica, che conosce bene anche il mio fidanzato, e chiedo aiuto a lei, che è smaliziata e ne ha viste di cotte e di crude. Lei mi dice senza mezzi termini: cara mia, mi dispiace, ma mi pare che tu stia subendo proprio la classica strategia di fuga maschile. Lui, secondo me, non ti ama più da tempo, ma non ha il coraggio di dirtelo. Ha un'altra storia? Si è semplicemente stufato? Non ha importanza sapere quale sia il motivo, fregatene. Quello che mi pare chiaro è che, come fanno sempre i maschi, non ha il coraggio di dirtelo. Non vuole lasciarti perché si sente in colpa e quindi aspetta che sia tu a lasciarlo. Ti sembra un comportamento strano? Niente affatto. Sì, lui aspetta che sia tu a mollarlo, così non ti fa sentire rifiutata. I maschi fanno sempre così. Ti lasciano l'onore di chiudere la storia. Vuoi mettere e dire alle amiche: sapete, con lui non ci stavo più bene e ho chiuso, piuttosto che mi ha detto che non mi ama più e mi ha mollato per un'altra. Ecco, lui punta al tuo sfinimento perché non vuole farti sentire rifiutata. Preferisce che tu arrivi al punto di dirgli: senti, non sei più quello di cui mi sono innamorata, chiudiamola qui. Devo dire che questa interpretazione della mia amica mi fa ancora più incazzare, scusa la parola, per la delusione che per la situazione. Ora da te vorrei sapere cosa ne pensi. È così anche per te? Gli uomini, quando non amano più, si fanno lasciare? Devo andare da lui e dirgli: caro, ti tolgo io d'impaccio dalla tua vigliaccheria? Ecco, vedi, non avevi bisogno di un punto di vista maschile. La tua amica, che è probabilmente molto più esperta di te in cose maschili, te l'ha detto esattamente così. Il tuo uomo si è rotto le palle. Scusami il termine volgare, il termine grossolano, ma non saprei proprio dirlo da un punto di vista maschile in maniera più esaustiva e totale. Non ne può più di te, o perlomeno, sì, ti sopporta, ti tiene come riservina, ti tiene come ripresina, ti tiene come un possibile riempimento nostalgico della sua vita sentimentale che con te non ha più punti di stimolo. E tu dici perché? E che ne so. Nelle mani del Padre Eterno, per chi ci crede, nelle mani del destino, nelle mani delle chimiche che noi non controlliamo, non so bene perché. A un certo punto un uomo si stanca di una donna. può essere una donna con cui vive da 50 anni, può essere una donna che ha frequentato da pochi mesi, può essere una donna che ha visto soltanto una notte. A un certo punto si stanca, non so cosa succede, comincia a sentirne l'odore sgradevole. Tu direi, ma cosa orribile che dici, io mi lavo tantissimo. No, comincia a sentire un odore, magari prima gli piaceva, poi non gli piace più. Evidentemente comincia a capire che quella donna improvvisamente ha abbandonato tutte le chimiche seduttive che prima lo rendevano suo schiavo, suo dipendente. È una forma di affrancamento che un uomo segue volentieri. Noi uomini sappiamo benissimo di essere dipendenti dalle donne e godiamo tantissimo nell'osservare questa nostra perdizione, perché in fondo è la ragione prima della nostra esistenza. Per questo studiamo, ci arrabattiamo, lavoriamo, ci facciamo strada nella vita, per avere ammirazione e per avere vicino delle donne che ci considerino degli uomini al centro della loro esistenza. Quando tutto questo, che naturalmente è un gioco illusorio, maschilista e monocratico, a senso unico, comincia a scomparire, noi diamo la colpa alla donna, non diamo la colpa a noi stessi che non ci vogliamo più impegnare, tutto quello che volete dire. Diciamo questa donna non ci piace più. A quel punto cosa facciamo? La cosa più semplice sarebbe, da un punto di vista razionale femminile, non ti piace più, lasciala, trovatene un'altra. Ma no, noi uomini siamo in questo indolenti, perché lasciarla, affrontare una crisi, affrontare una rottura, affrontare delle spiegazioni, affrontare i periodi di riflessione, affrontare le lacrime, i pianti, i graffi, le vendette, o affrontare il fatto che uno poi deve pensare a quello che fare dopo. Uomini ci lasciamo andare al destino, aspettiamo che sia la donna a fare il grande passo. Facciamo questo estremo regalo, ma lo facciamo per vigliaccheria, non per generosità. Aspettiamo che le donne non ne possano più di non essere sopportate e smettano di sopportarci. Ora, non dare colpa all'amore. L'amore è qualcosa di impercettibile, indescrivibile, indecifrabile. Non è che è finito l'amore, magari non è mai cominciato. Noi uomini diciamo la parola ti amo soltanto quando ci va di dirla, così, e non sempre corrispondente a un momento in cui siamo effettivamente, geneticamente, patologicamente, con tutti i sintomi dell'amore addosso. Fattene una ragione. Probabilmente puoi tenerti questo maccio stracchetto di te per un po' di tempo, cercatene un altro. Cerca di elaborare pian piano il fatto che lui non ti vuole più, e quando te ne sarai fatta una ragione, per te non sarà più un problema. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound design Luigi Speciale. Si avvisano i signori viaggiatori che il treno va sarà in partenza questa mattina alle 11 dalla stazione di Radio 24.